nostra patria e il mondo intero, nostra legge la libertà ed un pensiero ribelle in cor ci sta. E i miseri le sollevando un moto d'ogni nazione messi al bando. Nostra patria e il mondo intero, nostra legge e la libertà ed un pensiero, ed un pensiero, ed un pensiero. Nostra patria e il mondo intero, nostra legge e la libertà ed un pensiero. Ad agitar la pace dei diritti e nostra patria e il mondo intero, nostra legge e la libertà ed un pensiero, ed un pensiero. Nostra patria e il mondo intero, nostra legge e la libertà ed un pensiero. Domani!